analizzare appunto la materia con l'antimateria, cioè parliamo di antimateria, visto che l'antimateria secondo me è più intelligente della materia, no? Bisognerebbe votare l'antimateria. La zanzara. Tutto il resto è gioia. Siete delle merde! No, non ho detto gioia. Albertini, vieni giù, che sei frocio pure tu. Ieri ha destato molta polemica la sua analisi sulle tangenti come commissioni. Ecco, io non ho fatto nessuna analisi sulle tangenti. Io il nome tangenti non l'ho mai pronunciato e lo dico in una maniera assolutamente precisa. Le tangenti sono un reato che va evitato e quando accadono punito. Il giorno prima aveva detto: ma non sono reati, si tratta, scusi, di pagare una commissione a qualcuno di quel paese, perché quella è la regola di quel paese. Vogliamo non pagare commissioni e allora stiamo a casa e non vendiamo più niente. Ma lei parla sempre di competitività, di competizione, eccetera. La tangente è un classico modo per distruggere la competizione. Ma no, la tangente è un fenomeno che esiste ed è inutile voler negare l'esistenza di queste situazioni di necessità. Se lei le vuole negare, sta a casa sua. Vabbè, poi fate voi, ha detto tangente, non ha detto tangente, si riferiva alle commissioni, si riferiva alle tangenti. Avete sentito? La parola tangente è stata pronunciata, ma insomma, chi se ne frega? Questa è la zanzara, 800240024. Ma come chi se ne frega? Ma sì, chi se ne frega? È passata una polemica vecchia, già vecchia, vecchia, morta, morta. Cosa c'è di nuovo? Che ha detto che a 7 anni ha munto le vacche. Ecco, questo è nuovo. Io confesso di essere stato anch'io un lavoratore dei campi, perché durante la guerra io ho munto le vacche, va bene? Quando avevo 7 anni, per mantenere la famiglia, mio padre era un antifascista, ha dovuto scappare in Svizzera, quindi io eravamo due nonni, io e una mia sorellina, mantenuti da mia madre che veniva a Milano tutti i giorni in treno, e le entrate in famiglia erano modestissime. Io andavo a mungere le vacche su una collina d'Oltrona San Mamete, vicino a Como, e avevo come pagamento una calderina, un recipiente, con la cagiada, cioè con lo yogurt di allora. Con la patrimoniale in Francia i castelli vengono svenduti. Ma sarà vero, sarà falso, ma chissà. Il dato sui castelli in Francia. In Francia, tra l'altro, dove hanno fatto lo stesso errore, sono in vendita 160 castelli, perché i proprietari dei castelli, che non possono affittare, che non trovano il modo di utilizzarli, pagano delle tasse assolutamente fuori misura, e quindi tutti, e ci sono dei castelli meravigliosi, lo avviso se qualcuno di voi fosse interessato, perché ci sono dei castelli stupendi a 1 milione di euro, una cosa incredibile. E va bene. E insomma, se siete interessati a comprare un castello in Francia, dice Berlusconi, li vendono a pochi euro. Affrettatevi, affrettatevi. La Binetti colpisce ancora. Grande scontro oggi alla 7, all'aria che tira, se non sbaglio. Sì. Lei contro il giornalista dell'Espresso, gay dichiarato, Tommaso Cerno. Ancora una volta pronuncia quella parola che non si deve pronunciare, cioè dire i gay sono deviati. Certamente è una situazione che intorno a noi esiste, Ed è una situazione reale, è una situazione concreta in cui... Diceva Cerno che lui anche... Io sono gay, quindi esiste, vicino, vedi, per esempio... No, no, ma voglio dire, è una realtà No, esiste, concreta. Le volevo dire che esiste, esiste molto bene, esiste. Ma non è solo perché... Non solo perché... Però non mi sento deviato, non so come dire, sto certamente. Benissimo, guardi, non sono malato, no? No, no, no, sono, no. Sono il tema, sano. Il tema è un altro. Ma il tema è un altro cosa. Se uno dice deviato, significa deviato. Non è che significa un'altra cosa. Però uno non è che si può mettere a spiegare filosoficamente il significato della parola devianza. Cara onorevole Binetti, l'abbraccio fortissimo. E lei la pensa così? Ha ancora, fatto ancora, sua ancora. Gaff quotidiana. E mi sembra anche che da questo punto di vista, in tutto quello che è l'attività professionale, in tutto quello che è anche il raggiungimento di posizioni di successo, penso che tutti i suoi diritti siano stati ampiamente... Ma ci mancherebbe perché, lei, dice, perché lei ha la tesi di Napoli, dice, siccome è scemo, però, però è riuscito lo stesso. Ma io magari sono andato a lavorare perché posso fare il mio mestiere, non perché vado con le donne o con gli uomini, o perché devo sposare chi dice lei o chi voglio io. Questo è un approccio, mi sembra, io non ho detto questo. No, vabbè, ma voglio dire, no, perché sembra... Quello che io voglio dire cioè io secondo me si può essere gay anche senza essere Michelangelo, senza essere così intelligenti, anche uno che fa un lavoro normale, anche un esodato, anche un disoccupato ha il diritto di avere letto con chi vuole. La mia cosa che mi colpisce invece da donna, mi piace l'odore che hanno i maschi tra le gambe. Ma ci siamo dimenticati del mitico consigliere comunale di maggioranza all'Aquila, centrosinistra dell'Api di Rutelli, il signor Ludovici, il mitico Ludovici, il quale dice che l'omosessualità non è legale. Legale, signor Ludovici. Ludovici, a me fanno ridere questi personaggi. Ludovici, li adoro. L'omosessualità esiste? Esiste, però non è legale, non è regolare, non è normale. L'uomo è nato per fare l'uomo, la donna è nata per fare la donna. Dice sua eminenza che è un gravissimo peccato. Facciamo un'ipotesi per assurdo. Giuseppe Ludovici è un omosessuale, si innamora di una persona, di un partner, magari non so, di un altro consigliere comunale, e vogliono convivere insieme, avere dei diritti come le altre coppie, avere accesso, non so, un appartamento del progetto case. Come la mettiamo? Ma io non è una cosa che condivido, quindi l'uomo non può innamorarsi di un altro uomo, non è normale, quindi si tiene la malattia e va avanti. Malattia è una parola un po' grossa, dai. Diciamo la malattia, perché quando un uomo si innamora di un altro uomo non è normale. Albertini, vieni giù, che sei frocio pure tu. Perché c'è da ridi, non vedo che problema c'è, mettiamola così. Tu quando rifletti, Parenzo, rifletti tra te o fra te e qualcun altro? Quando rifletti? Beh, no, rifletto tra me e me. Tra te e te, cioè, direi. Rifletto, lo dice la parola ri e c'è la parola Adesso ti faccio sentire questa cosa di Lapo Elkan, no? Che dice di avere votato Lapo Elkan, del grande filosofo Lapo Elkan. Il filosofo della contemporaneità. Lapo Elkan, il quale dice, ho votato Renzi. Adesso, per le elezioni politiche, rifletto. Però rifletto non tra me e qualcun altro. Rifletto tra me e me. Capito? Aspetta, che bisogna capire bene. Andrei a votare? Ma ci sono andato e sono andato a votare quando si trattava di votare tra Bersani e Renzi. E ho votato Renzi. Andrò di sicuro a votare alle elezioni. Sono ancora indeciso e sono ancora in fase di riflessione tra me e me nel capire chi di quelli che ci sono mi piace di più o mi dispiace di meno. Vabbè, un po' di grillo al giorno toglie. È chiaro, no? È tutto chiaro, no? È tutto chiaro. Un po' di grillo al giorno toglie la tristezza di torno. Si può dire? La tristezza di torno, dai. Ha detto che Berlusconi è peggio del. È meglio del Partito Democratico, cioè che è peggio il Partito Democratico. L'ha detto oggi, lo ha ripetuto qualche giorno fa, ormai è un mantra continuo. C'è anche un po' di marketing elettorale, cioè si vuole prendere un po' di elettorato a sinistra, però sentiamo. Il PD, io me lo ricordo, in massa poteva cadere il governo Berlusconi, guardate che io mi sta sui coglioni Berlusconi, quel nano lì che fa le cose, ma è meno peggio, è meno peggio, perlomeno è un nemico giù, è un nemico dichiarato. Ma mi fa più schifo il PD che ci ha convissuto per 20 anni e ha fatto finta, e ha fatto finta di fare l'opposizione. Ma tu ti rendi conto, caro Parenzo? Hai letto oggi quello che c'è scritto sul Corriere della Sera? Pagina 6, il capogruppo leghista e la consulenza al genere operaio. Sì, beh, per carità, anche gli operai o chi ha la terza media può avere una consulenza. Per carità. Però il capogruppo della Lega Galli ha dato un incarico per 196.000 euro al marito della figlia. Questo è il punto. Per questo lavoro, la valutazione dell'attività legislativa, non lo capisco nemmeno io, valutazione dell'attività legislativa attinenti ai rapporti tra regione ed enti locali, con particolare attenzione alla provincia di Lecco, a supporto dell'attività del consigliere Stefano Galli, cioè per fare un cazzo, diciamolo tutto. Beh, è chiaro che uno fare nulla. La media può anche, come dire, no, non può fare attività di consulenza per la regione. No, può far capire di conto, ma ammettiamo che sia così, perché non è detto che uno debba per forza essere laureato alla Bocconi. Però ci sono due problemi. Primo è il genero, hai capito? È il genero. Sì. Secondo, che gli hanno fatto, come dire, una cosina proprio ad hoc, una cosa proprio costruita perfettamente. E il Galli è lo stesso delle spese che fece pagare, cioè il matrimonio della figlia. Sì, certo. È lo stesso Galli, bisogna ricordarlo, gli ascolti della Zanzara. Aspetta. Ah, sì, scusami. Squilla il telefono. Galli, manda i matti. Ne ha combinate di ogni, eh. Sì, ne ha combinate di cotte e di crude. Poi dicono Roma ladrona. Vodafone, servizio di segreteria telefonica. No, vediamo un po' se c'è la stessa. Ciao. In questo momento il tuo amico è impegnato in una situazione molto toccante. Appena si libera, dirò che hai chiamato. Forse, dopo il segnale acustico, registri il suo messaggio. Signor Galli, siamo sempre noi della Zanzara, la cerchiamo ormai da qualche tempo, prima per la storia del matrimonio della figlia, no, Parenzo, di sua figlia. Sì, ma per carità, spese. Sì, per le spese, lei ha spiegato tutto, però le avremmo pagato noi in quanto. Però pare che suo genero se la sia anche presa con lei, perché insomma non era stato informato, diciamo così. Adesso c'è questa storia che lei ha fatto fare questo contratto da 196.000 euro a suo cognato, anzi a suo genero. Genere. E per una consulenza, lui ha la terza media, 1.200-1.500 euro al mese, adesso ne guadagna molti di più, e poi soprattutto ha aggiunto dei premi, 12.600 euro una volta, 20.000 un'altra volta. Insomma, ci risponde la Zanzara, non vogliamo massacrarla, non si noi preoccupa. Sappiamo che la famiglia è una cosa importante, quindi la famiglia, specie se tradizionale, quella formata da uomo e donna prima di tutto. Assolutamente. Ma non con i soldi nostri, amico mio, però. Le zanzare di casa mia. Un meraviglioso Di Pietro, i candidati di Grillo, ti innamori della mamma e trovi la suocera. Si svegliano per me quando tutto sembra. Invito i cittadini a conoscere le persone, e questa idea che Grillo non li fa vedere alla televisione, li tiene nascosti, appare solo lui, io questo non la condivido, perché il cittadino non può conoscerla e alla fine si innamora di mamma e si trova a suocera. Abbandono il mio corpo. Beh, c'è anche da dire che quelli che invece candidava Di Pietro non è che li conoscevamo, ma non è che si sono dimostrati, no? Ecco, non è che, non è che si sono dimostrati dei geni. Voglio, dei geni della politica. Di casa mia, si sbronzano di me e festeggiano sul cuscino. Le straordinarie idee di Stefano Maullu, lo prendo da non leggerlo dal profilo. Stefano Maullu, ecco, siete già il PDL in Lombardia, senti che proposte sotto l'incalzare delle inchieste, degli scandali, degli arresti, certo. No? Proposte geniali di Stefano Maullu, PDL. Sì. Blocchiamo la magistratura per 40 giorni sotto elezioni. Ci vuole una moratoria. Ma dove cazzo le prendono queste cose? Ma quando le pensano soprattutto? Quando le pensano? Quando le pensano? È una battuta straordinaria, però. Filiberto da Ferrara, buonasera, Filiberto. Adesso lo chiamo, Maullu. Buonasera, come sta? Bene, dica. Maullu, vuoi il numero? Volevo solo dire una cosa brevissima stasera. Sì. Si ricorda che io ho già chiamato un mese fa, non si ricorda? Ma che mi ricordo, Filiberto? Ma chiama un sacco di gente, perfetto, su. Perfetto. Io volevo solo dire una cosa. Io vorrei sapere se i giudici che hanno provocato lo scandalo di Finmeccanica, alla prossima assemblea di fabbrica degli operai che costruiscono gli elicotteri, sì, saranno presenti, avranno il coraggio di presenziare. In che senso, scusi, questo. Perché? secondo me non c'hanno il coraggio di andare. Perché se ci va, cioè lei è uno di quelli che sostiene che la Finmeccanica e altre aziende vengono rovinate dall'inchiesta della magistratura? Penso di sì. Non, ma pensa penso di sì. Cioè non le rovinano quelli che magari commettono degli illeciti? È una prassi, secondo me. Ormai. Quello è un altro discorso. Quello è un altro, quello è un altro discorso. Quello è un altro prassi, discorso. Quindi, forse lo Stato sulla dirigenza... Questi giudici pensano di salvare il mondo. Hanno scoperto l'acqua calda. È una cosa che ormai lo sappiamo tutti come va a finire. Quindi se pensano di salvare il mondo non salvano assolutamente niente. Però scusi Filiberto, ridurranno in braghe di terra dei poveri operai. Però abbia pazienza, se lo Stato interveniva prima a rimuovere i vertici di Finmeccanica, forse la credibilità dell'azienda... Ma lei cosa pensa? Che se ne mettono degli altri cambierà qualcosa? Beh, dipende, magari mettono qualcuno specchiato. Ma no, ma guarda, non cambia assolutamente niente. Ma non è detto, non è detto. Allora, un attimo. Aspetta. Emilio? No, chi è? Sono Cruciani, come stai? No, non sei Cruciani, se sei Cruciani ti mando subito a fanculo. Perché? Come stai, Emilio? Bene, bene, se sei tu, bene. Ho aperto stasera la Ranocchia, in concorrenza alla Zanzara. Cioè, come? Hai aperto la Ranocchia? Cioè, un nuovo programma? È una trasmissione radiofonica. Veramente? Sì, nel senso che io da solo parlo ad alta voce qui nella stanza e fai solo la Ranocchia. Cioè, sei impazzito, ormai stai dando fuori di testa. Totalmente. Stai dando fuori di testa. L'età. Senti, ma ti sei deciso cosa voti fra 10 giorni? Ma io, guarda, sono perfettamente dell'idea di votare quello che ho sempre votato. Cioè Berlusconi. Negli anni antichi, sì. Quando ero giovane. Sì, che hai votato. Rovinato, io ero socialdemocratico. Pure. Pure quello c'hai. Socialdemocratico. Poi ho fatto il salto dalla Zanzara da socialdemocratico sono passato a Craxiano. Sì, pure quello. Pure quello. No, beh, quello diciamo quello va bene, quello socialdemocratico, abbiamo Nicolazzi, il Lenzuola d'Oro, quello che era, non mi ricordo. Un disastro totale. Ma controllavano pure i voti nei palazzi socialdemocratici per capire quanta gente li votava. Era proprio una cosa pazzesca. Comunque, vabbè, c'è una tradizione nobile. Ma sai, una tradizione nobile perché la socialdemocrazia è il sogno forse irraggiungibile di questo paese. Sì. Tanto stavo guardando adesso, guarda tutto. Ma insomma, che voti? Alla fine che voti? Scusami Emilio. Voto il Popolo della Libertà, sicuro. Ah, sicuro, ormai il 100%. Con gioia? Con gioia o con tristezza? O no, da solo, perché gioia quel giorno lì va in vacanza. Ma pensa se vince Bersani Vendola, che succede? Come? Se vince Bersani Vendola, l'Italia che succede all'Italia? Bel governo Bersani Vendola, che vincono, 26... Se parliamo seriamente, io non credo che ci sia questa possibilità. No, ma io avrei visto benissimo un governo Renzi, perché non mi piaceva tanto. Sì. Quando l'ho sentito l'ultima volta, non so dove. Scusa, hai sempre detto che era uno che un arrogante, eccetera. Non lo conoscevo. Cioè, non lo conoscevo. C'hai ripensato. No, è che tutte le volte che ero al TG4 e lo chiedevo in collegamento, lui non veniva. Non è che uno valuta solo per quello. No, aspetta, ho dedotto. Hai dedotto? Abbiamo capito che lui non volesse avere collegamento con TG4 perché inevitabilmente era il periodo in cui si diceva data d'arco. Sì, certo, arco le cose. Certo quello. Però l'ho sentito l'altra sera. Dunque, un governo Vendola. Scusa, ma questo Monti, Vendola al governo, che succede all'Italia con Vendola al governo? Guarda, tu ne sai qualcosa. Lo so. Allora io adesso devo trovare una transazione e dovrò versare offerto 1.500 euro, non so per quale fondazione, perché sia io che voi l'abbiamo offeso. Allora io trovo che quando una persona arriva a questo punto nei confronti di un giornalista che è un giornalista o di una trasmissione, quella volta che è una trasmissione, anche se poi dice devolviamo, eccetera. Vabbè, quello però di cattivo gusto. È legittimo pretendere. È legittimo. Vabbè, io posso querelare te 40 volte, ma nel momento in cui si tratta di farti sborsare una lira, io ritiro la querela. Io non mai querelato. Però scusami Emilia, a parte questo, ti voglio chiedere una cosa. Monti invece che dà del cialtrone a Berlusconi? Guarda, Monti, sono sincero, è la persona più noiosa. Guarda, ci sono due persone che si assomigliano, Monti e la Littizzetto. Addirittura. Io quando vedo la Littizzetto cambio canale, perché la donna che fa la bambina, mentre Monti è il bambino che tenta di fare l'uomo. Va bene, questo è quello. Ma ha dato del cialtrone a Berlusconi, una cosa pazzesca, cioè sì, cialtrone, ormai è diventato cattivissimo Monti, cialtrone a Berlusconi. Non potevi mai aspettare che uno che è senatore a vita, e io ritengo che non lo meriti, c'è altri ben che potrebbero, ma stanno discutendo sul Partito Radicale, su Pannella, perché non fare Pannella senatore a vita? Meglio lui di Monti, sarebbe meglio lui di Monti. Ma 100.000 volte è meglio di Monti. Emilio? No, chi è? Sono Cruciani, come stai? No, non sei Cruciani, se sei Cruciani ti mando subito a fanculo. Zanzare, quell'odioso insetto. Siete delle merde! Fa dormire la notte. E siamo sempre qui a fare danni. 800 24 00 24. La Zanzara. Oggi Bersani ha detto che Berlusconi lascia una catastrofe. Poi si è espresso anche sulla vendita della 7 Bersani, dicendo troppa fretta. Ma che c'entra troppa fretta? Ma poi che gli interessa della vendita della 7 a Bersani? Sì, effettivamente questo è strano. Ma adesso oggettivamente che gliene frega a Bersani della vendita della 7? È un'azienda privata, è un'azienda pubblica. Sì, è vero che le frequenze, per carità, sono un bene pubblico, che interessa la politica, la vendita della 7, però troppa fretta. Ma lasciasse decidere agli azionisti della 7, scusa. Andiamo a decidere al signor Bernabé, che peraltro salutiamo entrambi. No, saluti tu, io non saluto nessuno. Saluti Bernabé? No, non lo saluti, però saluti tu. No, agli atti. Cruciani non saluta Bernabé. Ma non è necessario salutarlo. Agli atti. Vabbè, Cruciani non saluta Bernabé. Vabbè, d'accordo. Spegni la luce, passa dalla TV. L'Apo Elkan, ho tanti difetti, ma non sono rincoglionito sulle donne. No, ma c'è una cosa in più che ha detto. Dimmi. Intanto sentiamo questo. Cambia spesso taglio di capelli perché gli piace mettersi in discussione. No, questa non l'ho registrata, comunque sentiamo. Ti assicuro? Sì, però sentiamo questa sulle donne. Ma per un ricco e famoso è più difficile fidarsi di un amico o di una donna? C'ho tanti difetti, ma non sono rincoglionito. Dunque riesco a discernere una donna che vuole venire per determinati motivi o meno, ancora oggi, perché c'ho ancora un cervello. E il cuore anche riesce a capire se le emozioni sono veritieri o meno. Veritieri, le emozioni veritieri. No, perché c'è la I finale di emozioni, no? E dunque veritieri. No, comunque bella anche questa. Cambio spesso taglio di capelli perché mi piace mettermi in discussione. Signor Lapo. Sempre le emozioni uno. Sono veritieri o meno. È sempre il numero uno, dai. È numero uno. Sono diverso da come mi dipingono i giornali, non parcheggio solo male. Beh, a nessuno l'aveva pensato questo in realtà. Ogni tanto si prende qualche multina per questi suoi SUV in stile militare, messi magari vicino alle fermate del tram. Ma ti ricordi che voleva fare? Voleva mettere sulla Ferrari la moquette? Sì, mai come il signor Proto. Signor Proto. Povero Proto, l'hanno appena messo. Il finanziere Proto, che una volta ha lasciato la macchina all'Arena Civica di Milano, parcheggiato proprio accanto, sai, alle mura dell'Arena Civica, accanto. Con un biglietto: se volete mettere una multa, fate pure, ma non rimuovetela. Tempo un paio d'ore che finisco una riunione e la sposto. Al massimo mettete una doppia multa. Grazie. Ma te credo poi le multe quando cazzo le pagava, mai? Signor Proto, un genio. Io non ho paura del fumo dell'occhio e questo libro qua non è fatto per far vedere o per espandere vanità, è fatto fondamentalmente per far capire e capire che dietro a quello che molto spesso i giornali o le televisioni fanno vedere di me c'è una persona molto più profonda, molto più vera e molto più genuina di quanto molte persone vogliano far descrivere di me. Che la realtà dei fatti, Lapo non è uno che parcheggia male soltanto, Lapo non è uno solo che ha delle macchine mimetiche o che ha degli abiti fatti in un modo, Lapo è una persona che è umana, che ha pregi e difetti, ma che ha anche delle qualità. E questo però adesso non è sbagliato, non è sbagliato. Anche se poi una metti a commentare anche le No, bene, non mi metto a commentare. Le frasi mitiche, le frasi mitiche di Alessandro Proto. Ormai va scritto quasi un libro. Senti, la volontà fa diventare re anche senza corona. Ti ho beccato, e da sempre ci ho provato. Ti ho inseguita, ti ho inseguita. tanto a San Vittore, signor Proto, io per carità non faccio ironie su questo, però. Grillo contro Rai 3, senti. Scusate, perché se possiamo stare un po' tranquilli. Chi è questo? Questo qui che sta riprendendo, lei chi è? È bellissimo. Dico, chi è lei? Dico, sono uno che sta riprendendo. Sì, ma ho capito. Lo vi. No, chi è? Sì, è un camera, ma di che televisione? La Rai. Allora, per cortesia, è pregato di uscire. Grazie. Un grillo al giorno toglie i pensieri di torno. Una sul nano, dai, una sul nano. Ed è bellissimo vedere questa gente che va lì a dire tutto il contrario di tutto. È bellissimo vedere il nano che va lì, saltella da uno show all'altro, hai capito? Saltella a dire, vi ridò l'IMU indietro, ve la do in contanti, vi ci metto anche un set di pentole e delle federe. Allora, lui se deve dare indietro qualcosa. Deve dare indietro le 3 concessioni televisive che gli sono state date gratis dal PD di D'Alema. Ecco cosa deve dare indietro. L'1% di fatturato ha pagato. Titoli del TG3 di Bianca Berlinguer. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Obama riceve Napolitano alla Casa Bianca, fiducia nell'Italia. Il presidente è preoccupato per una nuova Tangentopoli, deploro chi ora attacca Monti. Lancio di monetine e contestazioni contro l'ex direttore di Montepaschi, Mussari, ascoltato per 3 ore in procura a Siena, secretato il suo interrogatorio. Si dimette Giuseppe Orsi, il presidente di Finmeccanica, arrestato 3 giorni fa, mai saputo di manovre illecite e l'India cancella la commessa per gli elicotteri. Monti, mi offrirono il colle per non candidarmi, ho ereditato un governo da cialtroni. Berlusconi, ogni sua parola è cattiveria, poi si corregge sulle tangenti. Bersani, la destra ci ha lasciato una catastrofe morale, incredibili le giustificazioni del Cavaliere, fra il professore e Vendola il traffico lo dirigo io. Pistorius, in lacrime davanti al giudice dopo la morte della fidanzata, conferma la sua versione, non volevo ucciderla, ma l'accusa è omicidio premeditato. E' paura in Russia per una pioggia di meteoriti. Centinaia di feriti, molti bambini. Tra poche ore un asteroide ci sfiorerà, ma gli scienziati rassicurano non c'è nessun pericolo. Zanzara! Albertini, vieni giù, che sei frocio pure tu. Dentro il mio giardino ruggisce tutta la notte e dorme in un tombino. C'è la mia... La mazzata definitiva a Renzi la dà Lapo Elkan con questo endorsement. Sentite, Lapo Elkan dice alle primarie del PD: ho votato, già questa è una notizia che ha votato, e ho votato Renzi. Mazzata finale, eh? Ecco, l'ha ucciso. Andrei a votare? Ma ci sono andato e sono andato a votare quando si trattava di votare tra Bersani e Renzi. E ho votato Renzi. Ogni giorno battendo il tetto di Giannini. Ti ha riconosciuto come nemico, no? Come avversario. Mi ha riconosciuto come nemico. Il problema è che per lui nemico significa essere comunista. La novità è che ci sono dei nemici davvero liberali! Francesco, provincia di Cagliari. Buonasera, vabbè, Francesco. Mi fa impazzire quando urla così. Mi buonasera. Chi è? Salve. Devo dare ragione alla poica, mannaggia. Cioè? Sono la prova vivente che l'informazione non funziona. Francesco, io la sento male. Su, Mario dalla provincia di Milano. Cominciamo bene stasera, eh? Mario, provincia di Milano, su. Sì, buonasera. Io volevo parlare del discorso delle contingenti in India. Sì. Perché mi sta particolarmente a cuore, perché io sono 23 anni che vado in India a vendere macchinari. Sì. Non ho mai pagato una tangente. Sì. La tangente è una scelta, non è un obbligo. Sì, è anche vero che lei vende in un settore che magari non ha bisogno di ungere particolarmente dei funzionari. No, ci sono ci sono dei settori dove a parità di condizioni magari uno ha bisogno di pagare il funzionario. Ma non è che lo dico per dire che non bisogna colpire quelli che pagano le tangenti. No, perché io le trattative le perdo anche, non è che tutte le trattative che faccio le porto a casa. Sì. Quindi se adottassi questo sistema molto probabilmente ne porterei a casa molte di più. Lei dice si può lavorare con paesi del cosiddetto terzo mondo, che poi non sono terzo mondo manco per niente, senza pagare tangenti, giusto? Assolutamente. Che macchinari vende lei in India? Presse. Presse. Presse. Presse per i metalli. Presse. Allora lo dica a Berlusconi, lei voterà per Berlusconi? No, ma guardi, le dico di più. Lei voterà per Berlusconi, scusi Mario? No, no, non lo voterò, ma le dico di più. L'ha votato nel passato? Sì, l'ho votato nel passato, quando pensavo che un imprenditore agevolasse gli imprenditori, io sono un dirigente. E invece? Agevolasse gli imprenditori nelle esportazioni. In 20 anni sì. Non è cambiato... Vabbè, non è che gli altri governi abbiano fatto granché, eh? No, ma le spiego, una piccola cosa. Sì, piccola. Noi ancora oggi facciamo... abbiamo delle grandi difficoltà a rilasciare il visto ai clienti che devono venire in Italia a comprare i macchinari. Sì. Questa cosa in 10 anni, in 20 anni, non è cambiata nella maniera più totale. Sa cosa fanno i nostri clienti? Vanno all'ambasciata tedesca, gli fanno dare un visto Schengen, vanno in Germania, quindi vanno comunque dai nostri concorrenti, poi vengono da noi. Vabbè Mario, grazie. Fabio da Milano, buonasera. Cruciani! Fabio, dica. Grandioso. Allora, io di castelli ne ho 5. Sì. Tanto per iniziare. Che c'entrano i castelli? Il castello dell'Avento? Ma l'ha detto prima chi è che è intervenuto, che ha detto che c'ha il castello, compra il castello. Ah, il castello in Francia, sì, il castello in Francia. Bom. Ma allora, ne ha 5, dunque non ha bisogno di comprare altri castelli? Io non ho bisogno di comprare, ho bisogno che si ritorni ad una realtà di senso pratico... Ma normale. Non vabbè, allora andiamo al sodo con questo senso pratico, su Fabio. Al sodo, la storia delle tangenti fa ridere, fa veramente ridere, perché si va a cercare la purezza in tutto, come fanno i sindacati, come fa Parenzo che difende tutti, cioè qui le cose sono pratiche, chi è che difende, come sono. Succedono delle cose del genere, ma che non lo sa nessuno che va avanti così il mondo? Ma di che cosa ci scandalizziamo? Non ho capito, chi è che difende? E poi succede che al muro nella scuola di mia figlia è rotto e per ripararlo devono mettere i ponteggi, le sicurezze, i caschi, quelli e quella, e non si fa niente. Allora, un esperto americano oggi sulla stampa, se lo fanno gli americani si parla di lobby, per gli altri è corruzione. Fabio, grazie, io la penso come questo domande. Qua. Dimmi, dica, mi dica. Due domande, Cruciani, ma quando lei manda a quel paese gli ascoltatori, dopo c'è qualcuno che li consola oppure rimangono chiusi così? E che ne so io, qualcuno li consola, le mogli, le fidanzate o i mariti o i fidanzati? No, qualcuno di voi, dicevo. Ah, lei dice se c'è un nucleo... come i psicologi, dopo gli incidenti aerei, no? Per carità, esatto, non voglio fare paragoni eccessivi. C'è un gruppo di psicologi pro ascoltatori. Insomma, lei... E un'altra cosa, ma avete un copione o andate a braccio? Quasi sempre a braccio. Walter da Pistoia, buonasera. Un copione studiatissimo. Sì, soprattutto da Parenzo. Walter da Pistoia, buonasera. Walter. Walter. Pronto? Vada. Sì. Sì, ma lei deve andare al diavolo perché ha un collegamento balordo. Da dove chiama? Dallo scantinato? Dove chiama? Vabbè, vabbè, ma vado al diavolo. No, non sei Cruciani, se non sei Cruciani ti mando subito a fanculo. Mettiamo Gerani sui balconi. Le frasi mitiche di Alessandro Proto. In una lettera scritta a Gianni Barbacetto, giornalista del Fatto Quotidiano: Sbarbacetto, coglione pezzo di merda, prima di scrivere cazzate informati, decelebrato testa di cazzo. Ho fatto più io in 38 anni per la società che tu nella tua misera vita di merdosissimo uomo. Mi dia qualche settimana e mi compro il giornale e la metto a pulire i cessi. No. Lei è la vergogna dei giornalisti, scrive falsità solo per distruggere le persone. Con me non ci riuscirà, frustrato di merda, con stima. Dove l'ha scritta? Ha scritto una lettera, signor Barbacetto. Proto! Proto! Ma ce l'abbiamo qualche frase mitica di Proto alla Zanzara? No, vabbè, va più tardi. Senti questa, senti quest'altra. Capolista alla Camera per Forza Nuova, un tale che si chiama Marco Forconi, sempre da non leggerlo, eh. Ma come no, Forconi? Sempre ma ti ricordi Forconi che è venuto anche da noi, signor Forconi? Sì, aspetta. Che ha un nome straordinario, omen nomen, signor Forconi. Pizzicare un negro che ti stacca un manifesto è il massimo, pizzicarlo in faccia è godimento. Marco Forconi! Forza Nuova questo. c'è la voglia rossa e blu di Gorbaccio. Quanti immobili ha la chiesa, caro Parenzo? Guarda, apprendo dal Sole 24 Ore di oggi, in prima pagina, quanto vale il patrimonio globale. Chiesa, 2.000 miliardi in immobili, nel mondo ovviamente, 2.000 miliardi in immobili, 2.000 miliardi in immobili, 2.000 miliardi in immobili. Avete capito bene, ascoltatori della Zanzara? La chiesa francescana, la chiesa spoglia, la chiesa dei poveri possiede in tutto il mondo proprietà immobiliari, non tutte, chiaramente per attività commerciali, che ammontano a un totale di 2.000 miliardi. Ma quanti sono 2.000 miliardi? Cosa si può fare con 2.000 miliardi? Dico, vabbè, magari non tutti, ma magari 1.000, quelli in Italia, no? 1.000 certo. miliardi, cosa si può fare con 1.000 miliardi? Euro di euro, eh? Sì, alcune sono opere di bene, figuriamoci. Gaetano da Napoli, beh, certo. Gaetano, la chiesa dei poveri. Gaetano da Napoli, 800 24 00 24. Gaetano, dica. Buonasera, no, io chiamavo per quanto riguarda l'intervento, ho sentito prima la Binetti, insomma, che veniva un po' aggredita. Sì, anche se la parola ha deviato, anche se la parola ha deviato, in realtà viene ripetuta dal giornalista, è attribuita alla Binetti che l'aveva già detto, poi tutti dicono la Binetti ha detto di nuovo i gay sono deviati, in realtà non l'ha ridetto, questo bisogna sottolinearlo. Gaetano, allora. Sì, questo sì. E infatti anche quell'altra persona del... Vabbè, vada però, vada al sodo, su Gaetano, che vuole dire? Ecco, no, il punto è questo, noi non possiamo vergognarci di essere etero. Ma che c'è, ma chi le dice che si deve vergognare di essere etero? Perché si dovrebbe vergognare? Mi spieghi? Io sono etero, mi vergogno? Mi vergogno di essere etero e sono a favore delle coppie gay. Sono a favore del matrimonio e a favore dell'adozione. Mi devo vergognare di essere etero? No! No, questo no. E ma, allora, però, perché... appena si parla, voglio dire, magari qualcuno che esprime un concetto insomma un po' forte, ecco, secondo il proprio punto di vista, per cui dice che non è naturale, ecco, un rapporto gay, diciamo, rispetto a... Sì, ma noi non stiamo... qui abbiamo sentito prima dei personaggi che dicono che non è legale, ha capito? Legale, è diverso, che non è legale. Scusate, ma... Vabbè, Gaeta, Sergio da Vicenza, buonasera, Sergio. Buonasera. Dica. Io volevo dire vaffanculo a tutti quelli che pensano che le commesse sono una cosa normale, a quelli che pensano che in fondo siamo un po' tutti pedofili, che tutti sbagliamo, che tutti siamo corrotti, vaffanculo, stiamo distruggendo questo paese, non è vero. Io faccio il direttore acquisti da 20 anni, gestendo centinaia di migliaia di milioni di euro, in particolare lavoro moltissimo in questo periodo con India e Cina. Sì. Non siamo tutti uguali, i paesi non sono tutti uguali, le aziende tedesche d'eccellenza non si comportano come le nostre, noi abbiamo distrutto paesi. Beh, ci sono gli scandali anche in Germania, non è che in Germania... Ci sono gli scandali, ma non ci comportiamo non tutti sono uguali. Tutti preti e suore quelli buoni. Allora diciamo che siamo tutti uguali per tollerare la merda, va benissimo. Diciamo che siamo... No, tutti ma uguali. Non ho detto che siamo... Io tutti uguali, sono... Sergio, ci sono dei settori dove le intermediazioni sono molto elevate e la possibilità di qualche funzionario corrotto per ottenere delle commesse è molto più forte. È prassi comune, magari in alcuni paesi si chiama attività di lobby, in altri paesi si chiama... Ma l'attività di lobbying è un'attività lecita. Quando la Solvay ha comprato la Rodia, Sarkozy ha chiamato il presidente Jurken della Solvay e gli ha detto: caro Jurken, se vuoi comprare la Rodia, le aziende francesi non si toccano. La Solvay nel 2010 ha comprato la Rodia, l'amministratore delegato oggi della Solvay era l'amministratore delegato Rodia, il board della Solvay era il board Rodia. Nella discussione dell'Horizon, che vuol dire riduzione del personale del gruppo Solvay Rodia, c'è solo persone che sono fuori dalla Francia. Questo è lobbying, ma è quello che un governo dovrebbe fare. Diverso è corrompere delle persone. Non siamo tutti uguali. Vaffanculo chi dice che siamo tutti uguali. Grazie Sergio. Pietro da Monza, ecco. Buonasera. Buonasera. Io volevo parlare di commesse, ma commesse industriali. Io ero un manager, lo sono ancora, ma sempre con meno men. Ce ne ho sempre meno di men che mi seguono, purtroppo. Negli anni, fine anni 80, io lavoravo in un'azienda che faceva impianti nella ceramica. Siamo lontani, quindi non c'è più rischi penali nel dirlo. Noi vendavamo nel Centro America, in Costa Rica, in Venezuela, semplicemente e solo se davamo tangenti, solamente se portavamo soldi. Ma ho capito, ma scusi qualcuno. Pietro, non e è che perché vendevo e non vendevano i miei concorrenti olandesi, ed io ero orgoglioso di vendere là, perché davo lavoro insieme naturalmente a tutta la mia azienda, a 70 persone. Adesso devo vergognarmi di questo, io lo rifarei anche adesso. Però Pietro, non è perché è successo una volta e la prassi prima era quella di pagare le tangenti deve accadere per l'eternità, cioè no, non è questo il ragionamento. Ma è un fatto internazionale, adesso le aziende tedesche sono contente di andare a vendere dove noi non riusciamo a vendere, sono contente di andare a fare le pipeline di Saipem, che adesso non lavorerà più perché sarà considerata la lepra. E adesso cosa diciamo ai lavoratori della Saipem? Sì, però il problema non è che i lavoratori della Saipem possono lavorare solamente se ci sono le tangenti. Abbia pazienza, Pietro, cioè non è così. No, altrimenti non ci sarebbe il reato di tangenti internazionali, di corruzione internazionale, no? Ma certo, allora togliamo internazionale, andiamo a vedere in quali altri stati esiste questo reato. Andiamo a vedere quali sono le ragioni per cui siamo andati a bombardare la Libia e non siamo andati a bombardare la Siria. Perché là c'era un petrolio che era e un gas che era quasi tutto italiano nostro di ieri, adesso invece dove sta andando? Sta andando in Francia. E chi dobbiamo ringraziare? Chi? Lo dica. I giudici, chi dobbiamo ringraziare? No, dobbiamo ringraziare un paese che mai. Vabbè, la cosa questa è geopolitica. Non ha senso del paese. Va bene, grazie. Non mi moleste moschito. Non mi moleste moschito. Non mi moleste moschito. Why don't you go home? Non mi moleste moschito. Franco da Roma, buonasera. 800 24 00 24. Salve. Dica, Franco. Salve Cruciani, no, era riguardo alle adozioni gay. Ho visto che lei l'altra volta era favorevole, però insomma ci stanno delle cose che non, probabilmente che lei non sa, ma non perché non ha studiato bene la materia. Sì, non ho studiato bene la materia, certo. Invece vediamo il suo esimio parere, allora, professore, no, Franco. No, io non sono professore, sono una persona che ha adottato un bambino. Sì. Allora, non è che per questo ha più dignità rispetto ad altri. Probabilmente mi sono dovuto scontrare con una burocrazia un po' più molto, molto complicata. Che ne pensa? Che vale per tutti, non è che c'è la corsia preferenziale per i gay, no. Ecco, per questo, proprio perché vale per tutti. Certo. Allora, che ne pensa di una coppia gay di 45 anni, sì, è costretta perché ci sono l'età, sì, ad adottare un bambino di 8 anni che semmai per 6 anni ha vissuto in una famiglia in affido eterosessuale? Che ne pensa lei? Non ho capito nulla, scusi Franco, mi spieghi bene la cosa. Una coppia gay di 45 anni che chiede l'affidamento o l'adozione di... No, che chiede l'adozione? Lo sai che ci sono... Vabbè, chiede l'adozione di? Di un bambino. Di un bambino, qual è il problema? Qual è il problema? Lei è contrario, io sono a favore. No, io voglio sapere un suo pensiero. Un bambino, perché non possono prenderlo, una coppia di 45 anni non può prenderlo appena nato, lo può prendere che c'ha. Vabbè, ma questo per me devono valere le stesse regole per una coppia eterosessuale. Certo, è questo, queste qua sono le regole per una coppia eterosessuale. E chi dice contrarie? Chi dice che deve essere, che devono essere favorite le coppie omosessuali? Io voglio parlare del bambino. Ma il bambino che c'entra? Cosa c'entra? Il bambino che per 6 anni ha vissuto in una famiglia in affido. Ho 7 anni, una famiglia mi affido. Ma non lo so, ma queste sono... Scusi, abbia pazienza, Franco, questi sono dettagli. Questi sono dettagli. Questi sono dettagli. Sono parlando di un bambino. Sono dettagli. Sono dettagli. Se ci vogliamo mettere a ragionare, un bambino che ha vissuto fino a 8 anni in una coppia etero, poi non può andare in una coppia omo, può darsi che si possa stabilire questo principio. Non lo so. Il problema non è tanto il dettaglio, quale tipo di bambino, è riconoscere il diritto all'adozione. Questo è il punto fondamentale. Dopodiché, poi, secondo me, poi non dico che chi non lo vuole è un criminale, cioè è legittimo anche il pensiero, l'idea di chi dice invece no, non bisogna avere l'adozione per le coppie gay. Però lei non mi può dire adesso scendere in questo dettaglio, perché il punto non è questo. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire. E siamo qui, caro Parenzo, e do il benvenuto, ben ritrovato alla zanzara, ad Antonio Ingroia, candidato premier per Rivoluzione Civile. Buonasera, Ingroia. Buonasera a voi. Come sta? Ma chi gliel'ha fatto fare? Ma non era più comodo stare in Guatemala? Non era più comodo fare il magistrato? La campagna elettorale è faticosissima. Più, Più comodo sicuramente, più utile chissà. Più utile, ma l'attaccano di più adesso che è salito in politica o prima quando era... Ecco, questo è interessante. Ma hai fatto una domanda intelligente, come mai? Cioè, ma non lo so, me l'ha suggerita. È un suggerimento, no, scusi. No. Cioè, lei è più attaccato adesso? No, gli attacchi c'erano già prima e ci sono anche oggi. Diciamo, sono aumentati in intensità perché ci sono molti... Sono più, diciamo... Pensano che si fa meglio la campagna elettorale insultando i competitor politici. Vabbè, ha visto che Napolitano ha fatto... Che ha dici, visto per... che il suo amico napolitano ha fatto l'elogio di Monti da Obama? Che ha detto? No, non ha fatto. Ha detto deploro le critiche di chi l'ha sostenuto. Ha fatto un buon lavoro, ha detto ha fatto un buon lavoro negli ultimi 14 anni. Vabbè, Napolitano è un grande sponsor di Monti, di che ti stupisci? Forse Napolitano voterà per Monti. In Groia lei si stupisce di questa cosa qua, di Napolitano che... No, se... stupire no, certo, in campagna elettorale, insomma, gli altri, il Presidente della Repubblica, dovrebbero essere un po' più imparziali. Io sono d'accordo con lei su questo, guardi, devo dire la verità, sono d'accordo con lei. Questo napolitano ha sbagliato ancora. Si può dire che ha sbagliato a fare questa intromissione, no? Non è colpa mia se è lui che sbaglia. Ha sbagliato prima il conflitto di attribuzione, sbaglia di nuovo, succede. Succede. È la seconda volta che sbaglia. Speriamo che poi non sbagli quando dovrà designare il Presidente del Consiglio, dovrà incaricare, perché non c'è due senza tre. E beh, lì però, da un certo punto di vista, insomma, il suggerimento ce l'avrà dalle elezioni, no? Cioè, quello mi pare evidente. Però speriamo. Ma si fida di Napolitano o no, lei? In quest'ultima parte, si fida del fatto che sarà lui a dare l'incarico oppure sarebbe stato meglio il contrario? Non ci si può non fidare del Presidente della Repubblica, perché Per carità. Senta, a proposito di Napolitano, sempre su questo filone, lei recentemente ha detto una cosa che insomma mi lascia pensare, non so poi se sia stata riportata bene, perché sa poi con le frasi riportate dalla stampa, lei sa che i giornalisti sono tremendi, sono tremendi i giornalisti. Mi ero segnato qui una cosa, ha detto: io le tengo bene nel cassetto le intercettazioni di Napolitano, so benissimo qual è il contenuto. Me le tengo, eccole qua, le intercettazioni tra Napolitano e Mancino verranno distrutte, ma sono ben impresse nella mia memoria. Diciamo che le metto nel mio archivio. Che vuol dire? Nell'archivio mentale, ovviamente, mi riferivo. Ovvio che... Ma comunque, ho detto anche che quella stessa intervista, nello stesso momento in cui verranno automaticamente distrutte anche nella mia memoria. Vabbè, come si fa a distruggere la memoria, in groia? Ma se le segnate su un foglietto, se le segnate, sì. Non mi sottovalutate. No, per carità. No, anzi. Però è difficile la memoria, in questo caso lei ha una memoria di ferro, magistrato su queste cose qui, deve avere una memoria pazzesca, non è che... Cioè, non si può, sulla memoria non si può... In caso di distruzione c'è un meccanismo di autodistruzione della memoria, che vuoi fare? Anche nel suo cerbello, dice lei, no? Anche nel suo cervello. Esatto, però lei esatto, mi dica la verità, cioè, se l'è segnata su un foglietto? No. Sì, un fogliettino. Non un atto ufficiale, se l'è così, cioè, dalla memoria ogni tanto, fammele segnare così, casomai me le dovessi scordare o no? No, non ce l'ha segnata. Non ho mai avuto bisogno di prendere appunti delle cose che volevo ricordare, e non c'è stato mai bisogno di fare chissà che per cancellarlo. Ma Ciancimino fa bene a voler ascoltare le intercettazioni, a volere... Guardate che ho smesso di fare il PM. Adesso facciamo la politica. Adesso facciamo la politica, che c'entra? Adesso due battute. No, io volevo solo capire se nel caso di Napolitano si può dire una telefonata allunga la vita o allunga il settennato in questo caso. No, allunga il settennato, è rimasto... Allunga la vita politica. Non saprei rispondere alla tua domanda. Andiamo avanti, passiamo alla politica. Passiamo alla politica. È bello che. No, beh, lei è uno aperto sulla stampa, non è che pensa di poter fare. Assolutamente. No, assolutamente. Non mi avvolgo mai della facoltà della risposta. Appunto. Per cui, un'ultimissima cosa, e poi veramente chiudo: non voglio mai più parlare con lei di queste vicende. Mai finché. Ciancimino, fa bene a voler ascoltare le intercettazioni di Napolitano, sì o no? Che per ora non verranno distrutte. Per ora. Ma è un problema suo, è un imputato. L'imputato esercita i propri diritti come ritiene. Per cui un po' fa non bene. So che utilità, francamente, mi sfugge che utilità possa avere per la sua difesa. Ma comunque. Conoscendolo, lei dice queste intercettazioni. Ogni imputato svolge la difesa come ritiene. Certo, comunque lei dice: conoscendo queste intercettazioni non possono avere nessuna... mi sfugge l'importanza che possono avere. Comunque, vabbè. Ho detto, facendo riferimento al contenuto. ho detto, sapendo chi erano gli interlocutori. Ah, ho capito, ho capito. Ho capito. Sì, sì, ok, perfetto. Capitolo chiuso? Capitolo chiuso, vabbè. Capitolo chiuso. Per adesso, diciamo, nella storia italiana, poi magari si riaprirà. No, se... capitolo chiuso la nostra intervista. No, certo, ho capito. Ma capito. Napolitano! Ah, no, avuto un attimo un momento di... Senta, ma oggi qualcuno ha detto che gli arresti favoriscono ingroia in campagna elettorale. Cioè, non so chi l'ha detto, boh, non mi ricordo, pensando, ormai tutti parlano di tutto. Gli arresti favorirebbero... Vabbè, qualcuno ben informato sui sondaggi che... Forse violando il silenzio ha voluto far sapere che i sondaggi di ingloria crescono, ma questo non... Ma lei pensa davvero che questi arresti, questa ondata di arresti possa favorire un partito come il suo che fa della legalità, no, eccetera, eccetera? No, non credo affatto. Credo però che ovviamente queste vicende evidenziano ulteriormente che il problema della corruzione è una delle... E vabbè, questo è scontato. E dunque uno come lei che si presenta, come e dire... Forse un magistrato ha qualche carta e regola in più per aiutare la politica a fare quello che avrebbe sempre dovuto fare. E per cui è vero che un po' questi arresti la favoriscono dal punto di vista elettorale? Cioè, si può dire, non è una brutta cosa. No, se gli arresti non possono favorire e influire sulla campagna elettorale, non sono gli arresti. Certo, le ulteriori vicende che dimostrano quanto sia corrotta la casta e il ceto politico dimostra che Antonio Ingroia ha fatto bene a scendere in politica, o meglio a impegnarsi in politica, perché l'impegno in politica del magistrato può dare un contributo per risolvere per la pulizia, diciamo, per la pulizia. L'emergenza attuale. Oggi ho letto su Twitter una battuta formidabile. Ingroia, lei sa anche essere, non ha solo la faccia austera del magistrato che scende in politica per mondare la società, ma sa anche ridere quando vuole. I voti, la cosa è questa: voti Ingroia se quando fai sesso ti piace ammanettare la tua ragazza. Io l'ho trovata meravigliosa. Cioè, uno vota Ingroia se quando fai sesso ti piace ammanettare la tua ragazza. È stupenda. Mi dica la verità, è stupenda. Cioè, non c'è... Senta, ma... non posso farmi i complimenti da solo. Dai, no, in che senso si vuole fare i complimenti? Figa è sua questa qua, la battuta. Sento una cosa, ma cosa diceva? Ci vuole rivelare questa cosa di Borsellino sulla Boccassini? No, non ce la rivelerà mai, naturalmente. Qual è la cosa che diceva Borsellino della Boccassini? Anche quello è un capitolo chiuso, l'ha detto da un pezzo. No, non ha detto il contenuto. Il contenuto, no. Il contenuto, no, l'ha detto da un pezzo che il capitolo era chiuso. Ah, perché non mi accusò, io ho replicato con un pizzino, con quello che è stato considerato un pizzino, cioè una specie di minaccia. Adesso ti dico quella cosa là. Ammetta che ha sbagliato a dire quella cosa là. Ammetta che ha sbagliato a fare quella cosa là. Scaramucci. Ma se vi siete chiamati, vi siete sentiti? No. Mai. No. No, e quando vi sentite voi? Non è il caso, è giusto mantenere una netta separazione tra politica e magistratura. Ah, lo dice lei, lo dice. In particolare tra certa magistratura. Lo dice lei, è curioso. Senta, ma da quant'è che non vi sentite per telefono? Così poi chiudiamo questa cosa da Boccassini. Le faccio una bella domanda politica. Da quando facevo il pubblico con gli stessi. Cioè, proprio da un sacco di tempo? Ah, no, non vi sentite, Non vi sentite per telefono? Non importa. Non importa. Senta, il suo governo ideale, signor Ingroia, il suo governo ideale. Ministri, sottosegretari. Questo è interessante. Nel suo governo ideale chi c'è? Lei che cosa farebbe in un governo ideale per l'Italia? Il ministro della giustizia? Il presidente del consiglio? No, che cosa... Sono candidato premier, quindi fare il presidente del consiglio. Benissimo. Alla giustizia chi ci mettiamo allora? Ma dovrebbe fare l'Antonio Ingroia ad interim. Come ad interim Ingroia? Bella. Cioè, bella questa cosa. Agli esteri? Agli esteri chi ci mettiamo? Ma noi metteremmo... Io metterei sempre cittadini della società civile. Cioè, vabbè, una persona agli esteri che le piacerebbe. Chi le piacerebbe? Proprio Lotti, che è impegnato nella pace. Vabbè, adesso non mi può citare i suoi candidati, però. E non è che può fare il governo monocolore di rivoluzione civile. Pensa che sia una coalizione? Ma no, ho capito, lei si candida da solo, per carità. Flavio Lotti agli esteri, un operaio come Antonio Di Luca. Vabbè, ma ho capito, ma lei adesso sta dicendo i suoi candidati. Però in un governo ideale dove c'è anche Ingroia la giustizia, agli esteri... Ovviamente un governo monocolore. Ma il governo monocolore, dai. Ma è possibile? È un'utopia questa qua, soggettivamente. Lei combatte per il quorum del 4%, adesso vuole fare... Lei ha visto, avete visto che... nessuno vuole fare la coalizione con Antonio Ingroia. Antonio Ingroia va avanti con la sua. Ma che so, D'Alema agli esteri sarebbe una follia, D'Alema agli esteri, per esempio? Diciamo che le idee politiche sono molto distanti. No? Molto distanti, si può fare di meglio, si può fare di meglio. All'informazione, travaglio all'informazione, lo metterebbe? Bello. Sarebbe un ottimo esterno alla politica, ovviamente all'informazione. Io chiedo stasera che facciamo un incontro insieme. Chi è Travaglio a intervistare noi, ma gli fare una domanda. Come intervistate da solo, ma restate tra di voi, come diceva Cosimo. Come diceva qualcuno del vostro partito, troppi magistrati, finirà che va arrestate a vicenda, lei De Magistris e Di Pietro. Pure questa non era male. All'economia chi metterebbe? Guarda che alla fine lo ricostruisco il governo d'Italia di Ingroia. Ingroia, Presidente del Consiglio, la giustizia, l'interim Ingroia, informazione, Travaglio, Berlusconi rabbrividirebbe, cos'è che ha detto una volta? All'economia... Un grande economista. Vabbè, voi, ma mi dica un altro... Chi è l'economista che avete voi? Ne avete tanti? Ah, Giacchè, sì. Però mi dica un altro della società civile importante che metterebbe all'economia, oppure un'altra persona che metterebbe in un governo col Partito Democratico. Dovesse fare un governo col PD e con sé. Pendola. Chi metterebbe all'economia? No, non esiste. Non esiste nella natura delle cose, allo stato degli atti, un governo con il Partito Democratico. Cioè, un governo col Partito Democratico è impossibile fare che ci sia dopo le elezioni. Il Partito Democratico è scelto di fare il governo con Monti, noi siamo incompatibili con Monti, ergo. Lo sai chi ci ha raggiunto qua, signor Ingroia? Poi io lo presento, un giornalista che lei conosce bene. Il governo, altri nomi, che a Cruciani già abbiamo questo titolo d'agenzia. Ma vogliamo parlare del programma? Ma ci sono le tribune elettorali per il programma. Il programma è morto! Il programma è morto, non conta nulla, lei lo sa benissimo, non conta nulla il programma. Conta solo Ingroia, non il programma. Ha scritto enorme Ingroia lì, conterà pure più Ingroia o il programma? È chiaro che conta di più Ingroia, no? Com'è, come non è, cosa pensa, come non pensa. Conta Ingroia, ma deve contare di più il programma, certo. A proposito del programma, le faccio una domanda. Guardi, Berlusconi, poi mi dice una cosa sul governo. Berlusconi, ma lei introdurrebbe il reato, oggi l'ha detto Ruotolo, introdurrebbe il reato di, com'era, favoreggiamento della corruzione apologia, per le cose che ha detto sulle tangenti? Apologia della corruzione. Apologia, per me è una follia, glielo dico subito. Apologia della corruzione, una cosa ridicola. Vabbè, è stato ovviamente un paradosso di un dibattito di Sandro Ruoto, però non è tanto la questione del reato. E che cos'è? La questione che è criminogeno oggi con l'Italia divorata dalle corruzioni dire che le tangenti sono in fondo una cosetta che bisogna tollerare, e questo è il punto. Cioè, in questo momento, invece di porre rimedi e proporre rimedi agli italiani per difendersi dalla corruzione, dire che in fondo... No, però lui ha detto una cosa diversa a Berlusconi. Berlusconi ha detto che in alcuni paesi è normale... Poi, lui dice una cosa, poi lancia il sasso e ritira la mano, però quello... Quello è vero. La tarantella. Ma invece lei lo indagherebbe per compravendita di voti, per le promesse che fa, oppure sono solo cose elettorali? Cioè, ci può essere un reato in quello che ha detto Berlusconi sulla compravendita per la restituzione dell'IVA? Ma no, quella è una truffetta elettorale, ma certamente non penalmente rilevante. Vabbè. Anche lui fa campagna elettorale con gli effetti speciali, a me non piacciono. Gli effetti, anche lei, non è che no. Gli effetti speciali però li fanno un po' tutti. Senta, gli interni chi metterebbe in questo famoso governo? Ministro degli interni, chi lo farebbe? Nel suo governo ideale, avrà un governo ideale in testa? Si presenta Oliviero Bea, Bruno Dini. Che Oliviero Bea? Non lo so, qualcuno. Perché dovrebbe essere? Io penso che vanno messe le competenze. E appunto. Ma noi non è che le stiamo chiedendo cose indecenti. Che è un poliziotto. Ma sei un poliziotto ministro degli interni, su adesso. Siamo seri. Perché no? Un sindacalista perché di polizia fa il ministero degli interni. Vabbè, sì, va bene, perché no? Però lei non mi deve citare un suo, perché non è un governo monocolore. Ma dai, il ministro del lavoro, il poliziotto al ministero degli interni, il magistrato al ministero della giustizia. Vabbè, comunque... È il governo delle corporazioni, Ingroia. L'ingegnere come Castelli al ministero della giustizia e così via. No, ma le competenze vanno anche bene, però mi dica... La Carfagna, lasciamo perdere. La Carfagna che cosa, scusa? Dove la Carfagna? Dove? Che vuol dire lasciamo perdere? Il ministero al quale sono... a quello che era prima. Allora, che ne so, la Mannoia lo farebbe ministro della cultura, Fiorella. Perché no, certo. La Mannoia, vede che stiamo facendo adesso un disegno, vede che l'aiutiamo. Deve essere convinto, e la sua squadra di governo deve essere darci emozioni. Mannoia, Travaglio, non è che adesso tutto il fatto quotidiano. L'ex presidente della WWF, chi è? Che è il nostro candidato, Stefano Leone. Vabbè, ma tutti i candidati, lei mi sta dicendo, ma lasci perdere i candidati, quelli stanno in Parlamento. Pensiamo alla società civile. Certo. Ma io non posso sparare i ministri, non posso stare dei ministri se non sono certo che lo accetteranno. Vabbè, ma ho capito. Senta, ma nei primi 10 giorni o 100 giorni di governo legalizzerebbe le droghe leggere? Sì, come no? No. Come no? Io farei una netta della sua coalizione. Farei una netta distinzione, sì, come era la precedente legislazione, per droga leggere pesante, perché la e vabbè, d'accordo, ma per legalizzare, però è una bella legalizzazione, che ne so, vendere, lo Stato che vende la droga leggera, una cosa bellissima, l'incasso modello olandese, eh? Io credo che su questo si debba aprire un dibattito. Beh, il dibattito. Allora ha ragione Crozza. Sono i 10 punti. Sono decisioni di nostra prendere la leggera. Il dibattito. Apriamo il dibattito, è tremendo. Ma perché? Ma ci dica qual è il dubbio? Perché il confronto nel paese. In Groia io resto molto stupito, perché i partiti della sua coalizione hanno questo punto programmatico. Beh, la coalizione dei partiti che si è riassunta nella lista. Esatto, sì, legalizzazione. E quindi lei è in conflitto con Rifondazione non PDC. Non partiti, attenzione. Vabbè, la somma di partiti in Groia, non andiamo... Non è una somma di partiti, è un movimento al quale... La sintesi virtuosa fra società civile e alcuni partiti, va bene. Già ci siamo. Allora lei è in contrasto con mi questa dica, sintesi io virtuosa. Legalizzerei subito le droghe leggere. Non c'è niente di strano, è quello che lei è ha sempre detto. È quello che lei sostiene. Legalizzerei subito le droghe leggere. Droghe leggere. No, io... Sì. A suo tempo ed ero ancora magistrato, sì. Io personalmente ero favorevole alla liberalizzazione. E allora che vuol dire? Quando uno va in politica fa quello con voi. Io quello la confermo, ma è la mia personale posizione. Ma perché, scusi, c'è una differenza fra quello che lei pensa come persona e come candidato? L'idea personale, un conto è un leader di una formazione politica, deve rispondere agli elettori, deve essere scelto che gli elettori condividano la posizione personale del leader, e questa è la politica. Vabbè, la politica è diventato pronto per fare governo col PD, secondo me. È pronto, professionista della politica che deve fare politica. È pronto per fare governo. E la prostituzione? Ah, quello sì, la prostituzione va legalizzata. Per evitare il nero. Nel nostro programma non l'abbiamo affrontato. Non l'avete affrontato. Scusi, Don Gallo, ecco, mi è venuto in pensiero. Don Gallo, ministro. Agli esteri. O no? O no? Peraltro Don Gallo è il nostro, lo considero il nostro compagno di strada. Cioè, lei dice, vota per voi? Non lo so, se vota per noi deciderà lui. Beh, se lo dice un compagno di strada, Perché su molte cose ci ritroviamo su posizioni... Ma lo metterebbe? Lui su droghe e prostituzione diciamo è meno moderato di lei. È molto più avanti di lei. A me colpisce in Groia vederla così moderata. È diventato moderato. Io sono sicuro che lei poi vota anche... Moderato, lei in Parlamento voterebbe Doroteo, è vero, lei voterebbe il rifinanziamento delle missioni di questo passo di questo... appena entrato in Parlamento, vediamo. Come persona credevo, ma esatto, come leader politico, però c'è l'interesse nazionale. Ci sono cose su cui i nostri ragazzi intransigenza. Senta, ma Sallusti alla fine l'ha querelato? I militari siamo fermi per il ritiro immediato di tutte le truppe. Vediamo sullo spirito libertario. Lei, Sallusti, che ora è sotto processo dell'ordine, direbbe a questi magistrati dell'ordine dei magistrati, dei giornalisti, assolvetelo in nome della libertà di opinione? Oppure è un mascalzone come giornalista? Allora, ha commesso dei fatti non di semplice diffamazione, sì, dei fatti gravissimi, quali è giusto che sia il giudice che deciderà sorteso dall'ordine applichi la sanzione che si merita. Comunque è uguale a Crozza, è una cosa pazzesca. Senti, ha la pausa cattiva. Ma è vero che lo porta in tribunale quando le ha dato del mascalzone, sì o no? Lo porta in tribunale davvero? Per ora guardi, è l'ultimo dei miei pensieri. Ma lo legge, quindi lo porta, non torna indietro. E lui è l'ultimo dei miei pensieri. È l'ultimo, però c'è. Ma lo legge il giornale lei o no? Si vedrà. Dopo l'elezione discutiamo. Ma lo legge il giornale o no? Appuntamento per un'intervista alla Zanzara dopo l'elezione. Ma lo legge il giornale? Vedi, ha già prenotato lo spazio. Oppure lo usa come carta straccia? Oppure lo usa come. Lo sfoglia straordinario. No, ma scusi, Gloria, voglio capire, l'interesse di portare il signor Sallusti in tribunale è quello poi di pagarsi con la querela i soldi della campagna elettorale spesi, no? Beh, quello potrebbe essere interessante, no? Potrebbe essere. Non c'è interesse, comunque ho già detto che al momento non mi pongo. Sarebbe una goduria pazzesca dire Sallusti mi ha pagato la campagna elettorale, meraviglioso, no? Ma quanto ha speso, Ingroia, quanto ha speso di suo? Di suo, del sì, suo? Sì. Perché noi chiediamo anche questo a tutti. E poi ci sono i soldi di Giannino, 200.000 euro ha messo. 200.000, Giannino. È rimasto col conto scoperto. Eh? Non ho speso un euro. Io non ho speso un euro. Ah, e chi ha speso? I partiti? I partiti che l'hanno appoggiato? Sì. No, sono anche pubblici i finanziamenti della nostra campagna elettorale. C'è una contribuzione dei partiti che hanno aderito e c'è stata una sottoscrizione pubblica che partiva dal nostro sito per e lei non ha messo niente, neanche così per partecipare, cioè la gente... ho messo qualcosa se è per questo proprio di passate risarcimenti danni. Vedi, cioè ho fatto la campagna elettorale con i risarcimenti danni di chi? Di chi? Giornalisti, dice, per diffamazioni, dice lei? Qualcuno, sì. Giuliano Ferrara mi ha pagato la campagna elettorale. Che le aveva detto Giuliano Ferrara? Che ne so, criminale. Ferrara paga la campagna di Ingroia. Ma perché devi insistere su questi titoli? Chi se ne frega? Per avere Don Gallo ministro. Vabbè, una minima parte, su. Una minima ovviamente parte, la minima parte, però a titolo simbolico. Per titolo simbolico, mi ha pagato una parte della campagna elettorale. 30.000 euro, quanto ha pagato? 50.000? Va bene. 50.000? Vabbè, Ingroia, qui siamo alla... Lei è diventata improvvisamente la... Letizia, se i suoi testimoni fossero stati così, lei li incriminava per falsa testimonianza. Esatto, bravo. Ho trovato... Telese l'ho trovato scatenato. Ma perché ritorno alla Zanzara. Ritorno. E poi è bello che Ingroia ha queste pause che sono fantastiche. In mezzo però passa mi dica la verità, Rugliette. Ci vorrebbe nella Chiesa una bella mani pulite, no? Un bel repulisti nella Chiesa, una bella azione della magistratura di quelle serie per far fuori tutti questi scandali, eccetera. Ecco un'altra pausa. Beh, 3 diciamo secondi. Che una maggiore la maggiore trasparenza. Che vuol dire? Santo Dio, una cosa tremenda. A lei è diventato anche clericale in campagna elettorale, Ingroia. Era un baluardo di laicità. Ma qui la gente adesso vota Grillo, diciamo vota Grillo. Se lei una maggiore trasparenza. Le faccio sentire quello che dice Grillo sulla Chiesa. Sentiamo, divorato da Grillo. Dice delle cose sulla Chiesa tremende. E lei sta così. È un brodino riscaldato. La cosa tic e tac e tic e toc. Scaldi gli animi, ci dica arrestateli tutti, magari questo fosse un po' troppo, però no. Sei stupito delle dimissioni? No, non mi sono stupito, è tedesco, quindi quando non ce la fanno danno le dimissioni, sono i nostri che stanno lì da una vita. Cioè, è un SPA, lui è un amministratore delegato e si stanno rendendo conto che è la rete che... Beh, l'amministratore delegato della fede, diciamo. Sì, però si sta rendendo conto che è la rete che sta cambiando. Loro sono tradizionali da 2000 anni, quindi bisogna che cambino tradizione, e cambiare tradizione attraverso la rete. Vabbè, ce n'è di più forti, eh? Va bene, Ingroia, grazie. Grazie a mille. Grazie. Senta, grazie la domenica delle elezioni è meglio che l'Inter vinca il derby oppure che lei superi il 4% alla Camera? Beh, se l'Inter perde il derby non cade il mondo, eh? Non cade il mondo, eh? Non cade il mondo, non cade il mondo. Eccoci qui, 20:17, 800 24 00 24, eccezionalmente la Zanzara, grande ritorno in studio per Luca Telese, ex direttore di Pubblico, ha ricevuto un'altra mazzata con l'arresto di uno che doveva comprare le quote di Pubblico. Ma che gli frega? Proto, signor Proto, ti leggo una frase del finanziere Proto, caro ma che gli frega Telese di Proto? Una volta ha lasciato la macchina accanto all'Arena Civica di Milano, parcheggiata, con un biglietto, l'ho già detto, se volete mettere una multa fate pure, ma non rimuovetela, tempo un paio d'ore che finisco una riunione e la sposto, al massimo mettete una doppia multa, grazie. Poi lui una volta voleva, millantava di vendere dei titoli di non so che cosa con una carta bollata, con una carta finta che probabilmente aveva fatto lui con il simbolo di Mediobanca, un personaggio meraviglioso. Tanto a voi che vi fregava, basta che metteva i soldi, no? Io non c'ero più, non ci sono più in quel giornale. Va bene, 800 24 00 24. Paolo da Milano, buonasera Paolo. Pronto? Salve. Vada, vada. Senta, io volevo intervenire in merito alla, alla possibilità di adozione da parte delle coppie gay. Siccome l'ho sentita prima affermare il suo pensiero in maniera così chiara, sì, sì, mi sono chiesto se lei ha presente quali sono i meccanismi che vengono messi in atto. Mi faccia finire però, perché ma che me ne frega io sposo un principio, a me dei meccanismi concreti non me ne frega niente. Io lei ha detto che mette la cosa più importante è che si parli di adozione, si consenta ai bambini di essere adottati. Ma quello secondo me non è che dico chi è contrario a un criminale, dico io, secondo me il principio non è che i paesi dove c'è l'adozione gay sono paesi dove è cambiato tutto, dove tutto è in distruzione, dove la società va a rotoli. Sono paesi normali dove ci sono anche famiglie. Negli Stati Uniti ci sono un sacco di stati dove c'è l'adozione omosessuale, non mi pare che sono paesi o stati in distruzione. Ma poi quei bambini non si può generalizzare e parlare di una questione così importante. Un bambino ha il diritto di essere tutelato, e soprattutto i bambini che hanno le difficoltà e che si trovano in quella situazione hanno il diritto di essere tutelati. Ma quale meglio in orfanatrofio? Anche nella scelta della famiglia. Senta, scusi, è meglio in orfanatrofio secondo lei? No, mi perdoni. È meglio senza genitori? No, mi perdoni. Ma lei l'ha mai visto un genitore omosessuale? Ma lei sa che io ho avuto una ragazzina in affido per 5 anni, e allora, avendo già 2 figli. E allora si sta rispondendo. E quindi io ho ben presente che cosa significhi vivere in una comunità ed essere abbandonati. Allora, lei può avere in adozione la bambina e in affido e loro no. Questo è. No, mi perdoni, c'è una differenza di diritti. No, lei sta. Allora, se mi fa concludere, probabilmente alla fine il pensiero sarà simile a quello del sottoscritto. Il problema non è quello di non consentire ai bambini di andare nelle famiglie, perché basterebbe modificare delle norme e semplificare tutte quelle procedure che oggi complicano questo passaggio. Uno. Il problema invece è un altro, è invece individuare le famiglie adatte ai bambini, perché quello è il problema. Oggi i bambini però, Paolo, non ci sono famiglie. Ma perché lei scende nel dettaglio di cose che non mi interessano? Ma non mi interessa questo qua. A lei non interessa. Ma che cosa? Ma che vuol dire? Non ci sono bambini pronti per andare da una famiglia gay e bambini non pronti. Ma che vuol dire? Ma non è che può chiedere a un bambino di 4 anni, di 3 anni, di 2 anni: scusi, lei vuole andare con una famiglia col papà e la mamma, o col papà e col papà, o con la mamma? Signor Cruciani, lei si è dato la risposta da solo. Vabbè. Lei non si può chiedere a un bambino di scegliere la famiglia, ma chi decide, chi è messo nella condizione di dover valutare la famiglia, deve scegliere il meglio. Vabbè. E quindi ma lei che ne non sa può che pensare... il meglio? Qual è il meglio? Qual è il meglio? Qual è il meglio? Meglio lui? Il meglio è la condizione in cui un bambino può crescere in una situazione. Aspetti un attimo, aspetti un attimo. Chi è questo? È Maullo? No, Giuseppe Ludovici, consigliere comunale dell'API all'Aquila. Pronto? Sì, signor Ludovici? Sì. Buonasera, questa è l'associazione Pax Christi, come sta? L'associazione? Pax Christi. Che è? È un'associazione in difesa della famiglia, in difesa dei diritti dei familiari. Sì. Sì, salve. Sì. No, noi volevamo complimentarci per alcune affermazioni che lei ha fatto nei giorni scorsi sugli omosessuali. La ringrazio. Finalmente ha difeso l'identità cattolica. Inox signo vinces. Non è per tutti così. Comunque va bene, io inox signo vinces, amico mio. Meno male che c'è qualcuno come lei con la schiena diritta, no, e la faccia pulita. Ci sono degli amici qua che volevano ringraziarla per queste affermazioni che ha fatto, che l'omosessuale. Bravo. Ma come mai è stato così pronto nelle risposte ai giornalisti, signor Ludovici? Ma perché la pensavo alla stessa maniera. Come ho detto, pensavo. Cioè, ha detto delle cose spontaneamente, cioè... Sì, sì. Ma noi, guardi, noi difendiamo il diritto della famiglia, il diritto della famiglia tradizionale contro tutto questa, il mondo che sta andando a rotoli, no? È vero. Sta andando ormai a rotoli. È tutto un carnaio, uomini con uomini, uomini con cani, una roba incredibile. E non è possibile. E non è possibile. Non possiamo almeno noi dare il benestare? No, certo. No, certo. Noi figuriamoci. Certo, però poi troppi, i gay ormai si baciano nelle strade, una cosa tremenda. Siamo d'accordo. Lo so, ma pure all'Aquila, noi chiamiamo qui da Milano, pure all'Aquila è pieno? Più o meno. È infestata l'Aquila. Diciamo che qui si è messa su la cosa da quando una certa persona si è candidata al Senato. Cioè? Chi? A Pezzopane. Ah, la Pezzopane, l'ex sindaco, come no, certo. L'ex presidente della provincia. E perché, che ha fatto? Ha favorito i gay, la signora Pezzopane, ma maledetta la signora Pezzopane, che è successo? No, è di sinistra, quindi favorisce i gay. Quelli di sinistra favoriscono tutti i gay. Favoriscono i gay. La Pezzopane favorisce la i gay. La diffusione dei gay. Come l'ha favorito i gay? Scusi, no, questo qua è interessante, adesso facciamo una battaglia, un comunicato subito. E come li ha favoriti? Basta pensare la delibera che si è votata in consiglio comunale, sì. L'ha portata lei, quindi l'ha curata lei. Sì, vabbè, ma che delibera è? Non è che favorisce i gay? Beh, sì. Come li favorisce sti gay? Come li favorisce? No, li favorisce, sì. Li favorisce perché cerca di regolarizzarli. Cercando di regolarizzarli, dice lei. Vabbè, comunque, guardi. Solo che bisognerebbe fare un'ordinanza per vietare che si bacino lì all'Aquila, la prego. Perché ma lei che è in maggioranza, noi siamo a favore di questa cosa. Bisognerebbe fare un'ordinanza per vietare il bacio, una cosa di questo. Strada. O no, signor Ludovici? Siamo d'accordo. Perché non la propone allora come cosa? Sarebbe interessante. Vediamo quello che succede. Comunque, guardi, mi sento un po' demotivato. Sì, forse no, non ci crede. No, cioè, lei credo, ha fatto quelle dichiarazioni un po' così per andare sui giornali, tre titoli così, e poi non ci credeva. No, ci credo. Lei diceva malattia, l'omosessualità non è legale, invece niente, proprio la vedo. Ma legale, spompato. Ci vorrebbe una bella legge per vietare l'omosessualità, che dici? Francesco, che dici tu? Beh, una legge ci vuole. Ecco. Questo dipende dal governo, però. Però una legge proprio che vieta proprio come reato. In Russia l'hanno fatta recentemente, la propaganda, queste cose qua, no? Nei paesi dell'est. Certo. Beh, ci vorrebbe pure in Italia, cioè, anche no? A Sanremo, scusami, a Sanremo che hanno fatto questa... Quello è uno schifo tremendo. Una cosa pazzesca. Una vergogna. Questo spot per l'omosessualità, per la sodomia. Ma lei non l'ha visto, però, per fortuna. Lo vede Sanremo? Come? No, lei a Sanremo non... hanno fatto uno spot pazzesco per la sodomia. Per la sodomia, l'omosessualità, no? Non l'ho visto. No, e Sanremo non lo vede. Comunque, guardi, noi siamo veramente contenti. Faremo un'iniziativa tra qualche giorno a Milano... Stiamo raccogliendo un po' di gente. Pax Christi è l'associazione Pax Christi, associazione che difende le famiglie, la famiglia tradizionale, la famiglia cattolica. E niente, le manderemo magari un comunicato. Qual è la sua mail? Possiamo averla? L'indirizzo ce l'ho, le mail non ce l'ho. La mail non usa la mail? No, indirizzi no, allora meglio la mail. Poi arrivano. Scusi, la mail non ce l'ha una mail? No. Non usa la mail lei? No, perché poi arrivano comunicati omosessuali, figurati, hai ragione. Vabbè, no, allora poi mi può dare l'indirizzo? Viale Caduria, Fani 14, L'Aquila. Sì, L'Aquila, che il cap qual è? Così? Il cap? 6700. 6700. Il volantino è molto semplice, dice semplicemente no gay, molto semplice. No, vabbè, ma poi c'è tutto un testo. Ma lei è consigliere comunale dell'Api, ho letto da qualche parte, no? Giusto? Dell'Api, sì. Api di Rutelli. Ma io sono stato 40 anni alla Democrazia Cristiana, 9 anni a Forza Italia, non c'è più né la Democrazia Cristiana né Forza Italia. E adesso sta con l'Api. Sta con l'Api, però vabbè. Vabbè, adesso dove va adesso prossimamente? Ma scusi, ma poi non è in maggioranza lei all'Api, all'Aquila, è in maggioranza col centro-sinistra. Ma diciamo che io mi sono candidato con Forza Italia. Poi è passata all'Api. Poi è finita la l'area e quindi sono sceso alla... Sei sono sceso. Andato all'Api, però non se ne fotte, la maggioranza se ne frega. Vabbè. Ma comunque, sarà molto lì. No, no, ma io la cosa che voglio sapere, io questi, scusi, no, perché noi siamo qui in questa associazione, qui l'abbiamo chiamata, siamo rimasti colpiti da queste dichiarazioni che abbiamo letto sui giornali, no? Qualche giornale, in qualche mail, eccetera. Noi, in realtà, sulla questione omosessuale siamo molto più drastici, cioè noi vogliamo, oltre che la legge che la proibisce, per esempio, se lei incontra un omosessuale per strada, ecco, che cosa, qual è la sua reazione? Ma niente, non lo vedo. Non lo vede in che senso, scusi? Non esiste, non lo vedo. Non si fa turbare. Cioè, due che si prendono per mano, che si prendono per mano. Certo che sono malati, Francesco, sono malati, giusto? Sicuro. Sicuro, sicuro. Ma vogliono adottare i bambini, no? Sì, beh, chi è il padre e chi è la madre. Sì. Chi ha dei gay che è delle lesbiche. Sì. Sì. E dunque? E dunque non esiste. No, vabbè. Non è possibile. Non che è possibile. Mondo, che mondo che stanno costruendo. Ma che poi mondo. Anche se l'immagina, se l'immagina una scena di sesso tra due uomini, dottore. E perciò. Professore, se l'immagina questa scena di sesso o no, professore? Certo. Fa schifo proprio, no? No, una cosa tremenda. Vabbè, comunque. Grazie professore. Va bene, maestro, maestro, grazie. Buonasera, molto gentile, grazie. Buon lavoro, Non me moleste moschito. Non me moleste moschito. Vabbè. Non me moleste. Torniamo qui. Uno spaccato di Italia reazionaria. L'associazione Pax però Christi. Era, secondo me era influenzato da Ingroia. Era molto. No, sì, ma guarda che effettivamente parla vediamo. Così. Anche nelle dichiarazioni che ha fatto, parla così. Parla così. Questo poi era il telefono di casa. Succede di tutto qui alla Zanzara, cari ascoltatori. Abbiamo ancora mezz'ora. 800 24 00 24. Abbiamo parlato con un consigliere comunale dell'Aquila. Quale pensava? Cioè, non ci sono più i reazionari di un tempo. Ma perché devo chiamare Maullu? Scusa, perché devo chiedere due paroline a chiamiamo, Maullu. Maullu, no, adesso dobbiamo chiamare l'altra gente. Lui vuole chiamare Maullu, lo sai perché? Perché è un consigliere regionale del PDL, lo conosco bene, della Lombardia, che ha detto che bisognerebbe fare una moratoria per l'inchiesta dei magistrati nei 40 giorni precedenti le elezioni. Cioè, bisogna che i magistrati sospendano. Esatto. Noi siamo d'accordo. Chiamalo, ti ho dato il numero 335. Scusa un attimo, com'è che ha fatto Berlusconi da te? Cioè, che cos'è che ti caro Tilesi, dove lo trova lei un uomo di 78 anni che combatte per le proprie idee in questo modo? Bersani è fermo e io sono qui in campo a combattere minuto per minuto. Questa è esattamente le parole che fuori onda ha detto Berlusconi a Telesi sabato scorso. È ancora a casa, Emo. Le zanzare di casa. Eccoci qui, 800 24 00 24, la zanzara. Si svegliano per me quando tutto sembra poesia. Albertini, vieni giù che sei frocio pure tu. Ma l'ha detto a voi? Sì. È quello che gridavano ad Albertini quando non ha concesso il Gay Pride a Milano, no? Sono andati a fare una manifestazione sotto Palazzo Marino e dicevano Albertini vieni giù che sei proprio pure tu. Perché pensavano che c'era questa leggenda di Bossi, sì, che aveva messo in giro Bossi di Albertini, ma anche per via delle mutande. Allora, Alessandro Proto, sbarbacetto, coglione, pezzo di merda, prima di scrivere cazzate informati, decelebrato testa di cazzo. Ho fatto più io in 38 anni per la società che tu nella tua misera vita di merdosissimo uomo. Mi dia qualche settimana e mi compro il giornale e la metto a pulire i cessi. Lei è la vergogna dei giornalisti, scrive falsità solo per distruggere le persone. Con me non ci riuscirà, frustrato di merda. Con stima. A proposito di cessi bello puliti, è con stima però. Con stima finale. Con stima, perché se uno fosse stato aggressivo, invece ma tu l'hai incontrato sto Proto qualche volta? Io l'ho incontrato una volta per la vendita di pubblico. Sì, perché l'ho incontrato una volta. T'ha offerto la direzione di pubblico sotto il suo regno, diciamo, no? Mi aveva detto che voleva, aveva interesse che io continuassi a dirigere pubblico e tu gli hai detto di no. Fine. almeno questo. Beh, però è bello perché gli ho fatto una, cioè gli ho chiesto scusi, ma lei più o meno che sì. storia ha, eccetera. Ma che fa? Un'intervista? C'è rimasto male e ha chiuso lì. Che storia ha? Poi un'altra frase di Berlusconi che ti ha detto nel camerino, qual è stata? Oltre a quella Telese, uno 78 anni. E Berlusconi, fantastico, ha detto... Ha parlato... Ma non so se posso dirlo sì, qua. Sì, tutto si può dire. Ha parlato della sua fidanzata. Ah, che cosa ha detto? No! È peggio delle mie due precedenti mogli, mi controlla tutto, anche il telefonino. Veramente? Ho portato uno scoop. Ma dice che il telefono non ce l'ha. Ma dice che non ce l'ha. Evidentemente controlla. Sì, ha detto peggio di due mogli messe insieme. È cattiva. Poi ho detto, ma cattiva, presidente. Poi io la conosco perché l'ho incontrata diverse volte. Conosci la Pascale? È cattiva, tu? Sì, è cattiva. Come la conosci la Pascale? L'ho conosciuta perché siamo stati in un processo insieme, perché eravamo uno a fianco all'altra ospiti di Lerner e lei disse una battutaccia dura sulla Iervolino. Iervolino querelò, sì. Io ero testimone in questo processo. Ma chi è che imita meglio Berlusconi? Forse non Telese, naturalmente, che è un imitatore provetto. La storia dell'imitazione di Berlusconi passa innanzitutto dalla Guzzanti, mitica imitazione da Guzzanti. Posso essere molto generoso. La prima volta un bracciale, la seconda volta orecchini, la terza volta, se sono veramente carine con me, una collana, la parure completa. Non posso promettere a tutte quante. Beh, poi chi c'è? Crozza di recente? Il padre. Si è arrabbiato. Il padre della Guzzanti. Si è arrabbiato, da noi in onda ha detto, non ho mai detto figata, mai. Beh, padre della Guzzanti, Guzzanti senior. Ah, sì. Certo, sì, Vladimir, che è una vera democrazia efficace in questo paese, mentre da noi la gente si comporta in un modo, politici per primi, contro la democrazia stessa, che siamo noi, e sono contro di noi, dunque contro la democrazia stessa, non sono vero. Berlusconi è una delle persone più imitate, anche più facili da imitare. I non professionisti come Telese ci riescono abbastanza bene, ma insomma, no, ma è semplice, dai, su, è no, semplice. Parenzo imita meglio. No, Berlusconi è più difficile. Come? No, dico chi mi piace, quando dice governo tecnico. Tecnico, scompare tecnico. La C, è un fenomeno tecnico. Va bene, 800 24 00 24. Roberto da Udine, buonasera, dica. Roberto. Sì, pronto? Vada, i tuoi amici di Stormfront innanzitutto. Aspetta un attimo, devo dare una notizia a Parenzo. I tuoi amici di Stormfront, gli animatori di questo sito, il ministro... Io ho denunziato, l'hanno chiuso quel sito. Ma ci sono ancora sono intercettati. No, intercettati, saranno processati con rito abbreviato. Aspetta, il ministro Riccardi dovrebbe essere proprio deportato, io davvero lo brucerei vivo. Vabbè, Roberto da Udine, dica. Ma io intervengo per esprimere la mia indignazione rispetto a quel imprenditore che in pratica in questo modo giustifica tutto. Cioè non esiste più un limite che sia un limite di legalità. Io peraltro ci sono trovato in quella situazione, lavorando per la cooperazione e lo sviluppo. E ho rischiato di mio, ma non ho... chi è che giustifica la gente? Lei dice Berlusconi? Ma tutti coloro che giustificano il fatto che si possono pagare delle mazzette. Ma sì, ma guardi, però non bisogna essere ipocriti. Ci sono alcuni, cioè se uno è come il traffico di droga, se uno pensa di fermare il traffico di droga, allora possiamo fare l'utopia del mondo perfetto in cui tutto funziona perfettamente, in cui i traffici internazionali si possono fermare, oppure il mondo della realtà è il mondo in cui ci sono dei signori che per oliare certe macchine, che per oliare certe cose bisogna pagare delle dazioni. Allora, questo succede e succederà sempre. Poi ci sono i reati di corruzione internazionale, eccetera, eccetera. Però diciamo che il mondo ideale in cui non c'è la droga, non c'è la prostituzione, non c'è la corruzione, sì, però ha ragione non esiste. Lo perché? Puoi dire tu, non lo può dire lui. Dice, lo posso dire io, ma non lo può dire Berlusconi. Lo può dire Berlusconi. Vabbè, comunque. No, dato che io non sto parlando, lasciamo stare Berlusconi una volta tanto che tanto. Beh, no, è lui, se ne parla per questo. Se lo dice un imprenditore, chi se ne frega, scusi, abbia pazienza. Se ne parla perché Berlusconi, anche se non ha pronunciato secondo alcuni la parola tangente, in realtà l'ha pronunciata. Ha detto che insomma così si fa. Cioè, così si usa in tutto il mondo. E dunque, se non vogliamo perdere le commesse internazionali, dobbiamo adeguarci. Oliare. Ma è con noi una persona che sta vedendo Sanremo ogni giorno perché lo adora, lo ama. Gianni Boncompagni, buonasera. Salve, è vero. Tutti i giorni, anche la notte lo vedo. Buonasera. Lo registro e lo rivedo 4-5 volte al giorno. E poi, soprattutto, Crozza la fa morire dalle risate. Mi dica la verità. Un grande estimatore. Crozza, come? Crozza la fa scompisciare dalle risate, caro Boncompagni. Crozza, sì, è vero, perché è bravo. Quello è vero, è bravissimo. Però io ho l'impressione, Boncompagni, che non sia Sanremo non sia il posto adatto a Crozza. Cioè, poi c'è un overdose di Crozza. No, è vero. Vabbè. Ma questo è un dettaglio, però. No? È un dettaglio, sì, è un dettaglio. E invece Fazio, che lei conosce molto bene, come lo vede? Bravo, lui è bravo. È molto meglio lui di Sanremo. Cioè, in che senso? L'hanno incastrato. Anni Cattolo sa che anche Michele Serra, sì, è un ragazzo in gamba, intelligente, spiritoso. 50 anni il ragazzo. Come? È un ragazzo di mezza età, insomma. Vabbè, ragazzo, ragazzi, per dire, insomma, sì, però, per dire, certo. E vederlo a Sanremo mi sembra proprio buttato via. Cioè, le fa tristezza. L'hanno dice. Incastrati, l'hanno incastrati. Ma lì c'è la grana, Incastrati, molto un sacco di sorti che andiamo. Vorremmo tutti essere incastrati. Certo. C'è la grana, la grana. Vabbè, ma comunque. Ma eleva il livello delle masse oppure no, Gianni? Cosa, Sanremo? Livello? Questo Sanremo sta elevando il livello culturale delle masse, il gusto. Sì. No, domanda. Sì. Io sono le mie per te che lo vedi mie, così tante volte le mie giorno. Opinioni molto speciali e diciamole quali sono? Fosse no, che... dico appunto dico, quelli che si è fermata l'Italia praticamente sì. Per una settimana tutti 14 milioni 13-14 sì. A vedere Sanremo sì. E quindi si impressionano di quello che succede il giorno con tutti questi arrestati. Ma a me mi sembra che non si lanciano in terra. Ma io non ho visto mezza cosa, guardi, vedo ogni tanto delle cose su YouTube. Tutto... Beh, un grande evento televisivo, scusa. Ma sì, vabbè, un grande no? Evento televisivo nei paesi del terzo mondo, tutto si concentra intorno a un evento televisivo per 5 giorni. Diciamo la verità, giusto, buon compagno? Nei paesi arretrati. No, è una cosa da terzo mondo. Io lo trovo spaventoso. Il terremo è una cosa spaventosa. Come Miss Italia, uguale. Ma perché? Perché? Perché? Perché? Che vuol dire? Ma che vuol sono dire? Solo le io ho la mia opinione. Gianni, stai diventando fustigatore. Eri l'elogio dell'irreverenza, dell'irriverenza, vabbè, dell'irregolarità. Perché in questo caso è anzi anticonformismo puro. Cioè, no, perché tu è l'irradical chic. Non me lo aspetto da buon compagni che faccia la critica no, faccio sermonica chic, della sono TV disimpegnata. Canzoni. Tutto brutto, tutto una cosa. E sembrava, ma a me mi è sembrato la serietà, mi posso permettere di dire, che era la serietà del processo di Norimberga. No, ma cioè, questo è buono, buonissimo. Però con tutte le regole, le cose, la serietà. Non so se vi ricordate il processo di Norimberga, l'avete visto in qualche film, eccetera, c'era tutto perfetto lì. Vincitori tutto, e vinti. Sicuro, sei vincitori e vinti, là, tutti sterissimi. È la stessa serietà, la liturgia che c'era nel processo di Norimberga è la stessa di Sanremo. No, questo devo dire, questo va ridetto, questo va detto, tutto perfetto così, che nemmeno nel 2013 ancora siamo a fare queste cose qua. Io lo trovo, non sono no, ma tra l'altro io ieri a un certo punto l'unica cosa che a un certo punto ho visto fatto ascolti, no, cioè, sì, va, ascolti che dire, non c'è un cazzo da altre parti, ma non c'è nulla da altre parti sabato c'è in onda e crollerà, però no, ma voglio dire, c'è da altre parti, bravo. non c'è niente ma non c'è niente perché nessuno ci mette niente, bravo, questo è vero, c'è la desistenza catodica, ha ragione Moncompagni su questo, no, è uno scandalo, insomma, noi siamo così Sanremo, ma vi rendete conto, una roba di 50 anni fa, c'è 60 anni, ancora Sanremo non c'è più, i ragazzi, io ho molti nipoti, non sanno manco quello che è la televisione, non la sanno più, vabbè, però adesso 14 c'è questa nuova applicazione con il computer con 14 milioni di brani, sapete questo qui, no? Sì, questa come nuova non, cosa. Sì. Bene, cioè ancora Sanremo con le canzoni, ma tu dici che sono 14 milioni di vecchi che guardano Sanremo? No, non è no, no, sono 14 milioni di brani. No, lo so, quello è l'applicazione, lo so, ma tu a Sanremo c'è il 43% di share, chi sono? Chi sono? Gli anziani, sono anziani. Gli anziani. Come anziani? Pure anch'io sono come anche ragazzi. Ma, sì, ma poi i dati, ma chi ci crede che ci saranno 14-13 milioni? Dai, non lo so, però insomma, oltretutto, se vogliamo fare i tecnici, sì. Le canzoni sono non sono struggenti. La canzone deve essere struggente. Se uno canta una canzone di questi di Sanremo a una ragazza, quelli chiamano i carabinieri. Sentono la canzone e chiamano subito i carabinieri, i quali vengono e arrestano quello che l'ha cantata. Senta, buon compagno, ma invece parlando di politica, lei ha deciso per chi votare? Non lo dico. E come non lo dice? Che tutto è segreto. Ma lo sa che è la cosa folle della par condicio, che i conduttori, a lei non la riguarda, lei non la vorrà dire. Perché non possono dirlo i conduttori non lo possono dire, ma è una cosa assurda. Quindi noi non possiamo dire per un trenino elettrico molto carino, molto divertente. Beh, sempre con faccio il conduttore, il piccolo trenino. Sì. Però buon compagni, possiamo escludere Gianni che voterai la Santanchè? No, questo lo possiamo escludere. Beh, quello mi pare evidente. Io credo di sì, lo escluderei. Lo escluderei. Grillo? Grillo, eh? Grillo, no, Grillo. Grillo è mio simpatico. Ah. Sei tentato, sei tentato da Grillo. Sei tentato. Mi è simpatico perché è uno dei forconi, io dico, invece di andare a vedere Sanremo con i 14 milioni, sì, se fossero andati con i forconi nel palazzo dei poteri, sarebbe stato molto più moderno. Bravo, io sono diventato grillino pure io, sono diventato grillino, ma, lo sai. Ma sono diventato grillino. Di buon molto compagno, più moderno, immaginate. Insurrezionalista. Molto più moderno, invece di mettersi davanti... Vaffanculo! Papa, tutte queste cose così, così bisognerebbe. Anche al Vaticano, dici tu? Il Vaticano ormai in chiesa non ci va più nessuno, i seminari non ci sono più. Ma per cui sei nuovo Papa, questa storia sei disinteressato totalmente a questa cosa? No, sì, il Papa Terzo. Lo sai che anch'io sono disinteressato, finché non me leggo il Papa sono disinteressato ai giochi tra i cardinali, no, tutte le cose. Chissà cosa, non sapremo mai, no? Fra 2 o 3 mila anni lo sapremo, ma io credo che fra 2 o 3 mila anni noi non ci siamo più. Ah no, non c'è dubbio. Beh, eccezionalmente qui la zanzara questa sera. Scusa, una domanda. Dimmi, ma era una parodia quella lì o era proprio vera quella cosa lì del... Di che? Del traffico. No, è vero. No, aspetta, Gianni. Ah, era vero, pensavo fosse una parodia. Aspetta, Gianni. Pronto? Chi? Dottor Porcelli? Sì. Senta, buonasera, sono Luca Telese, sono un giornalista. Luca, pronto? Non se ne parla, Luca, grazie. Ma di cosa? Ma neanche gli ho detto. No, è già soldi che dobbiamo parlare. Allora, che cosa sa? La storia fra me e mia moglie, non se ne parla. Ma cosa è successo? Cosa niente, si può non dire? È successo niente, ci stiamo separando appunto. Le ma le notizie le da dove sono uscite fuori? Siccome io faccio il giornalista, sono vice caporedattore della RAI, quindi so benissimo quali sono le regole come, del gioco. Allora, spiegaci. Allora, le regole del gioco. Come è scappata fuori la notizia? Sono assolutamente ricostruzioni, assolutamente fatte con grande fantasia, non, io non ne voglio proprio parlare. Ma è vero, dimmi, è vero che hai il telefonino come pro e reato? Non lo so se è vero. Quindi è vero. Non lo so, non ti so dire. Non lo so, un giornalista, un collega che ti dice non lo so, prego, ti Luca, sta dicendo sì. Ti prego, ma Luca, sei in imbarazzo? No, non ti voglio imbarazzare. Non sto in imbarazzo, figurati se sei in imbarazzo, mi credo che 65 anni, Luca. Ah, sono uno che nasce sui marciapiedi, ma tu veramente fai? Ti prego, dai, ciao. Non me moleste moschito, non me moleste moschito. Buon compagni, qui è radio come vecchi tempi, qua si chiama Radio Verità. Si chiamano le avanti, come vecchi tempi, magari fosse stata così ai vecchi tempi. Questo era Gianni, questo era Porcelli della Rai che c'ha quella storia con incredibile di separazione con Berlusconi come in mezzo. Si chiama di cognome? Porcelli, vabbè, che c'è no, adesso? Non avevo sentito perché sono al telefono alla 7. Non avevo sentito in redazione in onda sabato e domenica da ore 20:30 a 22:30. Anzi, 23. Ma non ce ne frega, ne devi fare propaganda per la 7. Dai, su ogni volta, mamma mia. Però fa bene. Bernabé, resisti! Bernabé, ma perché resisti? Vendi. No, oggi Bersani ha detto una cosa assurda. No, Bersani ha detto una cosa assurda, lo ripeto. Ma che gliene frega a Bersani? Ha detto la 7, la vendita della 7, beh, non è questo il momento. Ha detto prudenza, aspettino un po'. Ma che gliene frega a Bersani? Cioè, vabbè. Beh, se quello va a uno che è legato a Berlusconi, certo non si diverte. Ma che questa storia di Cairo o qualcun altro legato a Berlusconi? No, Cairo è un altro. Ma chi? Altro. Quello di Clessidra, Sposito, là? Cioè... Clessidra. Ma sì, ma chi è che non ha avuto legami con Berlusconi? Comunque tutte brave persone. È come se uno dice la 7 a Buoncompagni, no? Cioè, pure Buoncompagni ha lavorato con Berlusconi. Però anche il vero di televisione ne sa. Sì. L'ultima volta è venuto, controllava i cameraman da noi, è serio. Ma pensa se vince Berlusconi, Gianni? Come là? Pensa se vince. Non ho capito chi. Berlusconi, pensa se vince le elezioni. No, non vince Berlusconi, no. No, e pensa, immagina se vince le elezioni. Grande sorpresa, i sondaggi... Insomma... Allora, secondo me la sorpresa sarà Grillo. Ah, beh, tu voti Grillo, dai, su, diciamo la verità. Tu voti Grillo. L'abbiamo capito. Può essere una conferma. Ma mica sei il Papa. Ma che c'è di male? Ma no, figurati, che c'è di male? Me lo dite come se fosse una colpa. No! No! Era bello saperlo. Io mi sa che voto una persona che ha le iniziali... Cioè, no, non dico, puoi, se dico, non puoi, non posso. Sei fuori legge, ti sono fuori legge. Sono molto, molto indeciso tra Ingroia o no, dai. L'abbiamo avuto prima Ingroia. Ingroia alla Camera e Grillo al Senato. Ma questo è come Travaglio, la copi Travaglio è uguale. Se vince, cioè, ti fa arrabbiare. Sei guarda, vabbè, io sono amico di Travaglio. Sì, no, prima ha detto Ingroia che farebbe Travaglio ministro della comunicazione. Certo. Cosa pazzesca. Vabbè, cioè, vabbè, tu che ministero ti prenderesti, Gianni? Ma che ministero? Per dare un segno alla storia di questo paese, la pubblica istruzione. Io prendo, non credo. Ma no, no, no, ma no, dai, su, no, no. Comunque, ma secondo te oggi ancora ci sono persone, quelli che votano Berlusconi oggi, che cosa hanno in testa? I disinformati, anziani, sono anziani, ma credo. Ma ce l'hai con gli anziani, Gianni? Ignari, ma pure ignari. Tu non sei un fanciullino, perché disinformati, ce l'hai con gli anziani, ignari? Ignari, sì. Disinformati, anziani e ignari, però non ma è che... un po' rincoglioniti. Ignoranti. Rincoglioniti pure, no? Un po' rincoglioniti. No, rincoglioniti no, ignoranti, che è molto peggio. Ma però tu l'hai votato. Col catetere anche. No, col catetere no, che c'è? Nel 94 l'hai votato. No, quello è esagerato col catetere. No, sono io, non li ho visti, li vedo. Li, vedo. Li vedi in faccia? No, insomma, sì, sì. Che sono faccia hanno? Sono Berlusconiana. Un abbraccio, ciao, buona serata. Ciao Gianni. Ciao. Ci sentiamo lunedì, ragazzi, 18:30, la Zanzara, grande reality della società, della politica di oggi. Mi sono inventato sta cazzata così, mi sono inventato questa minchiata in conclusione di trasmissione. Sì. Ciao.